Zolt. Fulminati in azienda. Allora ragazzi, vi ho convocato perché è venuto il momento di avere un codice etico. Ce l'hanno tutte le aziende e dobbiamo averlo anche noi. Il motivo è semplice: se abbiamo un codice etico i clienti si fidano di noi, se si fidano comprano, se comprano incassiamo denaro. Punto. Hai ragione Marco, sono anni che dobbiamo fare il nostro codice etico, finalmente, in carta filigranata. Poi bisogna mostrarlo a tutti i punti vendita, allegarlo ai regali di Natale, è fondamentale. Brava, brava Marta, vedi che mi hai capito. Tra l'altro le istituzioni ormai ci chiedono di avere un modello di organizzazione responsabile. Io direi da consulente che il codice etico ci serve per avere un'organizzazione responsabile. Ma bravo, ma vedi, te sei un super consulente coi fiocchi, mi rubi le parole di bocca, è per questo che ti paghiamo a peso d'oro. Ma come si organizza il lavoro? Scrivere un codice etico è un'impresa titanica, una cosa che neanche i padri costituenti... No, scusate, è semplicissimo, basta fare qualche centinaio di workshop in cui coinvolgiamo tutti i nostri collaboratori divisi per gruppi che scrivono il codice, però facilitati da un team di psicologi, certo. Sociologi, certo. Cattedratici... Benissimo, certo, così tra 20 anni abbiamo il codice etico, fantastico. Schedula, noi abbiamo bisogno di fare un lavoro veloce. Noi della consulenza abbiamo già predisposto questo progetto che vi consegno in sole 790 pagine. Una squadra di nostri luminari scriverà per voi il codice etico della vostra azienda. Benissimo, sono felice, partiamo, però mi raccomando, insomma, che ci siano dentro quelle robe lì, insomma, quelle che hanno tutti i clienti, le risorse umane, ecologia, un pochettino, responsabilità, fiducia, attenzione al mercato, agli stakeholder, qui, là, su, giù... Uè, super mega consulente, sono 3 mesi che aspetto di leggere questo codice etico, deve essere pronto dopo 2 settimane. Purtroppo è stato meno facile del previsto. Ma se abbiamo messo insieme uno squadrone di superluminari? Appunto, non riescono a mettersi d'accordo e si è aperta la guerra tra 2 diverse fazioni. Quelli che vogliono che il codice etico della tua azienda parli di orientamento al cliente e quelli che credono nella centralità del cliente, perché se un'azienda è centrata al cliente dà più l'idea che il cliente è al centro, se invece è orientata al cliente fa pensare ad un'azienda che è più orientata al cliente. Ma mi stai prendendo in giro? Ma vuoi dirmi che lo state scrivendo veramente il codice etico? Ma copiatelo, come al solito. Ah, finalmente abbiamo il nostro codice etico. L'ho letto, mi sono veramente emozionata. E tanto avevamo preso quello del concorrente e avevamo copiato. Ma mica mi sono emozionata per il contenuto, ma per la carta, i caratteri che abbiamo utilizzato. Il nostro è bellissimo perché è tutto stampato in lettere d'oro. Bene Marta, sono contento che ti soddisfi. Io anche sono felice, ora è venuto il momento però di comunicare il codice etico a tutti, al mercato, ai clienti e ai nostri dipendenti, perché tutti devono sapere che siamo un'azienda etica. Ah sì? Ma da quando è che siamo diventati un'azienda etica? Da adesso abbiamo il codice etico, siamo un'azienda etica. Non avevo capito, scusa. Comunque per comunicarlo o facciamo la solita cosa grigia di stamparlo e inserirlo nella busta paga dei dipendenti, oppure prova a immaginare, prendiamo un elicottero e lanciamo il codice etico su tutta la città e vedrai che con le sue letterine dorate scintillerà tutto. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z2o 1t.